Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Il modello tedesco che propone Renzi è comunque, qualora si facesse sul serio, l'uscita dal Medioevo per l'Italia. Si riferiva, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vendola alla legge sulle unioni civili, che forse potrebbe vedere luce tra poco, dopo tanti tira e molla di questi anni. Avete sentito che in questi giorni abbiamo parlato anche di questo scontro inedito che si è creato tra Forza Italia e Nuovo Centrodestra proprio sulle unioni civili, quelle relative ai gay, perché anche su questo bisognerebbe capire. Vari giornali titolavano oggi che sono soltanto per le persone dello stesso sesso le unioni civili, mentre effettivamente sono un tipo di convivenza codificata, diciamo, dalla legge che aspettano in molti. Questo è un argomento di cui abbiamo parlato molto, quindi magari stasera eviteremo, però parleremo di Ebola, perché oggi c'è stato un summit d'emergenza, d'urgenza, convocato da Obama, il presidente americano, che ha detto che è una cosa seria, stanno parlando, insomma l'allarme cresce man mano, e ha detto che è stato sottovalutato sinora, come abbiamo ripetuto più volte. E poi parleremo anche di quel maestro a Treviso che nei filmati si vede picchiare anche a calci, pugni, i suoi allievi, sono dei bambini delle scuole elementari. Parleremo col sottosegretario Toccafondi all'istruzione per capire com'è possibile che dopo varie segnalazioni fosse ancora insegnante in queste scuole elementari. E parleremo anche di Tasi, perché ricordatevi che nella maggior parte dei comuni, poi chiariremo questa cosa, in quanti comuni più o meno, si deve pagare entro domani, 16 ottobre. Quante cose che vi devo raccontare questa sera, ma prima di tutto epilogo della giornata. Borse, giornata nera per quelle europee, bruciati 276 miliardi, Milano perde il 4%, pesano i timori per la crescita, anche Wall Street a picco. La legge di stabilità, limature in corso, pare ancora, per la manovra da 36 miliardi, Renzi assicura 18 miliardi di tasse in meno, ma sembra che non ci sia la norma sul TFR. Emergenza Ebola, Obama convoca un summit d'urgenza, nuovo caso di contagio intanto in Texas e in Italia, vertice a Palazzo Chigi. Maltempo, Parma chiede lo stato di calamità, in Friuli travolta da una frana una donna, in Maremma rabbia, inchieste, circa 60.000 permessi di soggiorno persi a Genova. Napoli, la verità sulla bimba caduta dal balcone, fu vittima di abusi e la mamma dice: sono stata lasciata sola, chiedo giustizia o la faccio da me. Crollano i prezzi del petrolio, benzina sotto un euro virgola 8 al litro. Partiamo quindi dalla legge di stabilità, sentiremo man mano i dettagli, poi la spiegheremo, approfondiremo anche dopo. Se avete delle domande, dei chiarimenti, dei commenti anche da fare, vi ricordo che c'è sempre il numero per gli sms, che è il 349-238-6666, poi c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi. Dicevo, partiamo quindi dalla legge di stabilità, che dopo un lungo tiro e molla la manovra arriva in Consiglio dei Ministri per la sua definitiva approvazione, prima di essere poi inviata a Bruxelles. L'Unione Europea valuterà gli impegni presi dall'Italia e il 29 ottobre darà il suo responso. Prima si parlava fino a poco fa di una manovra da 30 miliardi, poi dalle ultime indiscrezioni di 36 miliardi e che non ci sarà la norma tanto dibattuta sul TFR. Chiedo lumi a Vincenzo Miglietta, che per l'occasione è qui, oggi è la festa anche di Radio 24, sta festeggiando. Vincenzo Miglietta di solito lo sentiamo da Roma in diretta ai palazzi del potere, in questo palazzone oggi. Ciao Vincenzo. Ciao, ciao, buonasera ai nostri ascoltatori. Dicevi giustamente, una manovra che è andata lievitando almeno negli ultimi giorni, a maggior ragione nelle ultime ore. Il dato di questa mattina era di 30 miliardi, siamo arrivati a 35-36 miliardi, quindi una manovra da un grosso impatto e che quindi dovrà essere valutata attentamente il 29 ottobre dall'Unione Europea, ed evidentemente in queste ore sta creando dei problemi anche allo stesso Consiglio dei Ministri, perché ricordiamo doveva iniziare alle 15, poi doveva iniziare alle 18, addirittura è iniziato alle 20, per cui sono circa due ore che i ministri ci stanno lavorando. Una notizia che invece sembra proprio degli ultimi minuti è che invece il TFR ci sarà. Ci sarà quindi nel 2015, scatterebbe nella seconda metà dell'anno e sarà, come ha più volte detto anche il Presidente del Consiglio, su base volontaria, quindi solamente coloro, i lavoratori che vorranno avere un anticipo anticipo del TFR in busta paga lo potranno avere. Quindi 35-36 miliardi di impatto, ma il dato più importante che è stato ricordato da Palazzo Chigi sono il taglio di 18 miliardi nella pressione fiscale sia sulle famiglie ma soprattutto sulle imprese, e questo, Roberta, soprattutto per lasciare più soldi nelle buste paga dei cittadini ma anche delle imprese. L'obiettivo qual è? Quello di rilanciare fondamentalmente i consumi e quindi in seconda battuta la crescita. Questo è un po' il quadro al momento. Grazie Vincenzo Miglietta, poi torneremo ancora sull'argomento per vedere se stanno portando avanti altre cose, se escono altre indiscrezioni. E dalla legge di stabilità passiamo anche a parlare della giornata particolarmente negativa per le borse oggi, tensioni sui mercati per i timori sulla solidità della ripresa americana e sulla crescita europea, per la situazione greca in particolare, per l'allarme Ebola. Milano ha perso il 4%, Londra è scesa del 2,83%, Francoforte del 2,87%, Parigi del 3,63%, Madrid del 3,41%, quindi tutte male. In particolare ad agitare i listini del vecchio continente ha cominciato la Grecia, alle cui intenzioni di uscire in anticipo dal piano di assistenza di Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale di convocare elezioni anticipate hanno messo in agitazione gli investitori, tutti elementi che incidono sull'andamento dei mercati. La borsa di Atene è arrivata a cedere il 9% e in sofferenza anche Wall Street. E ora il virus Ebola, un nuovo allarme in Texas per un altro contagio. Anche lei, come la prima infermiera infetta, aveva curato Eric Duncan, l'uomo liberiano morto la scorsa settimana a Dallas. Un'altra operatrice sanitaria ha contratto il virus Ebola in Texas ed è ora in isolamento. Prima che i sintomi si manifestassero, tuttavia, la donna aveva preso un aereo da Cleveland a Dallas. I passeggeri che erano con lei a bordo sono già stati contattati. Dell'emergenza il presidente americano Barack Obama discuterà in giornata in una conference call con il premier britannico Cameron, il presidente francese Hollande, la cancelliera tedesca Merkel e il premier italiano. Siamo in stato di allerta sul virus Ebola e studiamo tutte le misure di prevenzione possibili, ha detto il ministro Alfano, che partecipa ad un vertice voluto da Renzi a Palazzo Chigi insieme ai ministri Lorenzin e Pinotti. In Sierra Leone si trova da qualche giorno il fondatore di Emergency, Gino Strada. La prima sensazione è che sia assolutamente fuori controllo. Ogni giorno qui a Freetown vengono registrati circa 80-90 nuovi casi confermati, il che vuol dire che i casi veri sono molto di più. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poi vi dicevo, anche un vertice, oltre a quello di Obama, anche in Italia c'è stato, e sentiremo più tardi un responsabile, un virologo dell'Istituto Spallanzani di Roma, che è uno dei due ospedali punti di riferimento ufficiali in Italia per l'emergenza Ebola. Uno è Sacco di Milano, l'altro è lo Spallanzani di Roma. Ne parleremo dopo. Purtroppo si fanno i conti anche con il maltempo in Italia, che ha flagellato il nostro paese provocando ancora vittime. La procura di Grosseto ha aperto un'inchiesta per le due sorelle sessantenni che sono morte ieri nella loro auto trascinata dall'onda di piena. Un'altra vittima in provincia di Trieste, nel comune di Muggia, dove una donna di 73 anni è morta travolta dal fango nella propria abitazione. Danni ingentissimi anche a Parma, che adesso rischia anche il collasso del sistema fognario, e c'è il sindaco che ha chiesto lo stato di emergenza. Poi dovremo cercare di raggiungerlo, Pizzarotti. In Toscana Enrico Rossi, il presidente della regione, chiede di avere poteri da commissario per sbloccare gli aiuti. Servono decine di milioni di euro, dice. Sentiamo allora Rossi al microfono di Raffaella Calandra. Abbiamo avuto 40 imprese agricole colpite per la seconda volta nell'arco di 2 anni. Non hanno avuto provvidenze da nessuno, se non dalla regione. Quella zona, se non viene aiutata economicamente, rischia davvero una caduta economica drammatica. E a Parma è arrivata la denuncia dell'ex assessore ai trasporti della provincia, Andrea Fellini, che racconta di aver scritto già ad agosto una lettera ai ministri Lupi, Boschi, Galletti, ad Erasmo D'Angelis, coordinatore di Italia Sicura, per denunciare i danni inflitti dagli eventi climatici. Immediata la replica del coordinatore di Italia Sicura D'Angelis, che abbiamo avuto proprio ieri o l'altro ieri con Effetto Note, ha detto: ognuno si assuma le proprie responsabilità, non serve fare lo scaricabarile. Intanto il sindaco Pizzarotti, vi dicevo, ha chiesto lo stato di calamità, poi lo sentiremo. Oggi Genova si prova nel frattempo a ripartire. Il sole va e viene, le previsioni dicono che potrà piovere di nuovo, rovesci sparsi, non violenti. Si spala ancora e si prova a ricominciare. I negozi offrono merce asciugata e ripulita, di tutto, dai profumi ai giacconi alle valigie. Prezzi stracciati, ci sono le code. In altri negozi invece non c'è più vita, neppure per gli sciacalli. Alla Foce ieri sera ne hanno arrestati altri due. Il servizio dei bus è ancora ridotto, ritorno sui banchi di scuola a tratti ha paralizzato il traffico. Nel cortile della questura una pala meccanica smuove la catasta di fascicoli, più di 60.000 spazzati dalla furia dell'acqua. Erano nell'ufficio immigrazione, praticamente cancellato in un attimo. Il dirigente Marco Allegretti. È stato tutto distrutto, sia le suppellettili che tutto l'apparato informatico, che è fondamentale perché le pratiche sono tutte trattate elettronicamente. Faremo tutto il possibile affinché non ci siano disagi o ritardi per la nostra utenza, che sono praticamente gli stranieri che necessitano di permesso di soggiorno. Il presidente della regione Claudio Burlando si sfoga in consiglio. Non è colpa mia, dice, il progetto dello scolmatore fu bocciato da altri. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova. Il maltempo si abbatte anche in Nepal. Tempeste di neve e valanghe hanno già ucciso più di 20 persone. Incerto il numero degli escursionisti ancora bloccati sulle montagne. Ritorniamo sulle notizie italiane con la politica. La Lega apre un colloquio col Movimento 5 Stelle sulla lotta all'euro, ma esclude il ricorso a un referendum. Grillo accusa, la Lega lancia il sasso dall'uscita dall'euro e poi nasconde la mano. Beppe Grillo rispedisce al mittente la proposta di dialogo del segretario della Lega sui temi della lotta anti-euro. Caro Salvini, non c'è bisogno di alcun incontro ufficiale, scrive il comico genovese sulla sua pagina Facebook. A dividere i due sarebbe tra gli altri il tema del referendum per l'uscita dall'euro. Il segretario del Carroccio ha infatti escluso la possibilità di fare ricorso a una consultazione perché non previsto dalla Costituzione. Grillo risponde dal suo blog e attacca la Lega degli euromolli, promettendo di mandare gli italiani alle urne entro la fine del 2015. Secondo il leader del Movimento 5 Stelle, il referendum consultivo si può fare. Il progetto è quello di raccogliere 50.000 firme per poi far approvare una legge costituzionale che nelle intenzioni di Grillo dovrebbe permettere agli italiani di esprimere la propria volontà sull'uscita dall'euro. Dopo una fase di avvicinamento tra i due partiti, quindi, Grillo sembra aver deciso di proseguire le sue battaglie anti-euro da solo. Miriam Corgia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E arriva la notizia di un bilaterale che ci sarà nei prossimi giorni tra Renzi e Putin. Dovrebbe avvenire a Milano venerdì 17 alle 14, lo rende noto Palazzo Chigi. Poi giovedì 16, invece domani, all'Hotel Rosa Grande avrà luogo il bilaterale col presidente ucraino Poroshenko, questo sempre nell'ottica di una mediazione, insomma, tra Russia e Ucraina e la possibile crisi energetica. Per la cronaca italiana, picchiava gli allievi, sospeso dall'insegnamento un maestro di scuola elementare di Treviso. Sentiremo, vi dicevo, poi il sottosegretario all'istruzione Toccafondi. E in chiusura, dopo gli scontri e la sospensione della gara, le polemiche. Quanto avvenuto ieri durante Serbia-Albania a Belgrado diventa un caso politico. L'UEFA ha aperto un'inchiesta sugli incidenti che hanno portato alla sospensione della partita. Biasimo è stato espresso anche dalla Commissione europea. A Radio 24 la testimonianza di Gianni De Biasi, dal 2011 commissario tecnico dell'Albania, oggi ospite di tutti i convocati. È un clima di grande ostilità. Siamo arrivati allo stadio, già al sopralluogo c'era veramente una tensione notevole, una tifoseria che tirava di tutto in campo, delle cose pazzesche da questo punto di vista, che si aspettava solo la scintilla per dare il via alle cose, e che l'unica cosa sulla quale mi sento di spezzare una lancia in favore dei serbi è che i giocatori, in particolare Kolarov, Ivanovic e Matic, sono stati veramente bravi da questo punto di vista, qui hanno capito la situazione e hanno cercato di darci una mano. Questo sicuramente lo posso dire. E tra l'altro vedo un'agenzia di pochi istanti fa, un commento di Michel Platini, presidente dell'UEFA, che dice: immaginate se sotto quel drone che è atterrato nel campo della partita ci fosse stata una bomba, dice, molto pericoloso, soprattutto in quei paesi dove la tensione politica è molto alta. Allora, saluto Salvatore Chicco Padula, ci siamo sentiti ieri, Chicco. Ciao, buonasera. Vice direttore del Sole 24 Ore, per anticipare qualcosa della legge di stabilità. In realtà pensavo che a quest'ora qualcosa di più definitivo ci fosse, ma come hai sentito prima doveva esserci a una ora, poi è stato rimandato, poi ancora 18, poi dopo è cominciato intorno alle 20 e penso che andranno avanti ancora un po'. Però già delle cose si sanno, intanto l'annuncio era già stato di qualche giorno fa dei 18 miliardi di tagli alle tasse di Renzi. è passata la manovra, da, perché stanno facendo limature, correzioni, da 30 miliardi che dovevano essere a 36 miliardi, e poi prima, un'oretta fa, si diceva che non c'era la norma del TFR dentro la legge di stabilità, adesso invece c'è di nuovo. Quindi Hai detto tutto tu. Basta, possiamo salutarci. No, ci serve un interprete competente come te. No, è esattamente così, insomma. Sappiamo qualche cosa in più, perché insomma qualcosa comincia a trapelare da Palazzo Chigi. Direi che la cosa più importante è che la manovra diventa ancora più grossa, ancora più impegnativa. Siamo passati dai 30 miliardi che si ipotizzavano stamattina, ieri sera, ai 36 di cui si parla oggi e di cui si parla adesso, non oggi. Insomma, bisognerà capire un po', insomma, questi 6 miliardi da che cosa arriveranno. Ci saranno più tagli alle spese, ci sarà, non lo so, più lotta all'evasione. Ancora al momento questo non è chiarissimo. L'altra cosa significativa, importante, l'hai pure ricordata tu, si era incerti se la norma sul TFR, quindi la possibilità di incassare mensilmente una quota del TFR maturato durante l'anno, venisse messo effettivamente dentro la legge di stabilità o in un provvedimento collegato alla legge di stabilità. Ora, insomma, sempre da Palazzo Chigi sembra di capire che il TFR è lì dentro, quindi si va verso un'ipotesi di chi volontariamente e per un periodo limitato, pare di 3 anni, potrà richiedere al datore di lavoro di avere mensilmente in busta paga una quota del TFR. Le imprese, per contro, dovrebbero essere agevolate nel ottenere finanziamenti dalle banche per poter corrispondere ai dipendenti questi importi. Mi sembra che Patuelli, presidente dell'ABI, Associazione Bancaria Italiana, abbia detto che sono favorevoli, perché si parlava di un possibile obbligo, no? Di obbligare le banche, visto che non sono state molto propense a dare credito ultimamente. Sì. Però, no? Sono le banche sono favorevoli, e mi sembra di aver capito che stamattina hanno avuto un incontro con il governo e questo incontro dovrebbe aver definito le modalità, che ancora non conosciamo, però le modalità attraverso le quali le banche garantiranno l'erogazione dei prestiti alle imprese, che ricordo è una cosa molto importante, perché se noi facciamo un intervento che in qualche modo può andare a vantaggio del lavoratore, se il lavoratore lo desidera, e quindi magari stimolare i consumi, ridare un pochino di ottimismo in questa fase molto buia, però se contemporaneamente mettiamo in difficoltà le imprese che non hanno in questa fase la liquidità necessaria per erogare ai dipendenti questi soldi, facciamo un pasticcio. Però se la cosa funziona come anche Patuelli, l'ABI, le banche hanno lasciato intendere, allora forse è una cosa che si può fare. Non ci sarà nessun obbligo, quindi questo è importante, no? Volontaria, chi lo vorrà, vorrà, sì. E se no, altrimenti niente. C'è Vittorio sulla pagina Facebook di Fettonotte che dice: nell'instabilità si cerca un equilibrio, ma se manca stabilità politica, come potrà esserci quella economica? E tanto c'è questo sforzo. È una domanda filosofica. Molto filosofica, devo dire. Senti, invece, quando quella voce che dice pronti 500 milioni per le famiglie, si intende tra TFR, tra sgravi? Guarda, tra lì cose. Io conosco un paio di ipotesi sulle quali il governo stava lavorando, vediamo quale sarà l'esito. La prima, più tradizionale, già adesso esistono degli sgravi, dei crediti d'imposta, degli sconti particolari per le famiglie più numerose, dal terzo figlio in poi. Quindi un'ipotesi è quella di, soprattutto se i figli sono piccoli, hanno fino, un anno, 2 anni di età. Quindi un'ipotesi è quella di aumentare quella detrazione IRPEF che è già prevista. Un'altra ipotesi è invece di legarlo al famoso bonus degli 80 euro, quindi inserendo tra i destinatari, possibili destinatari degli 80 euro, anche una fascia di famiglie che magari superano quel limite dei 20 e dei 28 mila euro oltre il quale il bonus non si prende più, ma nel caso in cui ci fossero invece figli numerosi, 3-4 figli in famiglia, allora anche a loro verrebbe dato qualcosa. Vediamo quale sarà la decisione. E questo bisogna ancora vederlo. Poco. Invece dice un ascoltatore, scrive al 349-238-6666, spiegatevi 18 miliardi da dove? Le tasse si diminuiscono solo da variazioni delle percentuali. Diciamo, dice una cosa parzialmente vera. In parte vera, sì, nel senso che tecnicamente il bonus degli 80 euro non è una riduzione di tasse, no? Perché non è che tu paghi meno IRPEF, tu lavoratore dipendente paghi meno IRPEF, in realtà è un contributo aggiuntivo che ti viene messo in busta paga ogni mese, pari a 900 rotti, 960 euro all'anno, ma non è un taglio di tasse, però diciamo tecnicamente è vero, però l'effetto è come se mi avessero abbassato le tasse, insomma ho più soldi in busta paga. Nel caso dell'IRAP invece è effettivamente un taglio di tasse, perché in quel caso diciamo il costo del lavoro, che è una delle componenti che serve per determinare l'IRAP, non entrerà in più nella base imponibile dell'IRAP e quindi diciamo l'importo complessivo dell'IRAP sarà più basso di 6,5 miliardi e mezzo, che è, insomma, è una cosa importante. Salvatore Padula, Chicco, dobbiamo occuparci anche di una cosa molto importante, al di là di tutti questi calcoli, di questa manovra, di tutti questi miliardi. Domani si paga la TASI, scade 16 ottobre. Domani è l'ultimo giorno, sì. Che tra l'altro, scusami, a proposito di burocrazia, speriamo che tra gli annunci di Renzi sia fondato quello che arriverà prima o poi, la dichiarazione dei redditi precompilata, in modo che le cose siano più semplici, perché già la TASI, che uno se la debba andare a calcolare sui siti, vedere in base alla rendita, cioè non so, qualche persona sarà anche in difficoltà o no? Assolutamente. Oltre a doverselo ricordare da sé. Non qualche persona, molte persone, moltissime persone sono in difficoltà. Diciamo, la buona notizia per chi si accontenta è che la dichiarazione precompilata, cioè la dichiarazione dei redditi precompilata, effettivamente arriverà, perché proprio domani la Camera e il Senato daranno il via libera al provvedimento, al decreto legislativo che contiene le regole per far partire dal 2015 questa cosa. Sulla TASI devo dire c'è un'altra novità che sta dentro la legge di stabilità, perché dentro la legge di stabilità è previsto che dal prossimo anno non ci sarà più questa IUC, l'imposta unica sulla casa, che in realtà, come abbiamo tante volte detto, sono tre imposte, la TASI, l'IMU e la TARI sui rifiuti, col risultato che nessuno sa mai che cosa deve pagare, che cosa gli tocca di pagare. Faranno veramente un'imposta unica, probabilmente, diciamo auspicabilmente più semplice. Sarebbe l'ora. Quest'anno è andata, come sappiamo, domani è l'ultimo giorno per pagare, lo si può fare, come insomma molti, io mi auguro che tanti lo abbiano già fatto, perché ridursi all'ultimo giorno è sempre abbastanza pericoloso, perché è più facile sbagliare, e si può pagare come sempre, diciamo, sia in banca col modello F24 sia in posta con il bollettino postale. E diciamo una cosa, forse si può dire che anche se si dovesse sbagliare il calcolo, bisogna ricordare che nei primi 30 giorni si può rimediare all'errore, o anche se uno non ha pagato e paga con 3, 4, 5 giorni di ritardo, lo si può fare con l'applicazione di una piccolissima sanzione che equivale allo 0,2% al giorno. Quindi insomma non è molto, mi rendo conto, però insomma la TASI quest'anno è stata un disastro. Anzi, poi avremo a dicembre anche la terza puntata, in effetti, con il saldo. E lo ricorderemo, come abbiamo ricordato quelli domani. Ricordatevi domani, 16 ottobre, scadenza della TASI. Grazie mille, Chicco Padula. Buon Ciao, lavoro. Grazie a voi. Quindi dicevamo, a proposito del maltempo, l'alluvione di Genova, con i disastri che ha creato, il ministro dell'Ambiente Galletti, che terrà nell'aula della Camera domani alle 12 un'informativa urgente sull'alluvione avvenuta a Genova. Per la Maremma abbiamo sentito che i familiari di Marisa e Graziella Carletti, le due sorelle morte per un'ondata di piena in Maremma, presenteranno domani, gli avvocati, una denuncia per omicidio colposo contro ignoti alla Procura della Repubblica di Grosseto. A Trieste, per una frana causata dal maltempo, dicevamo, è morta una donna di 73 anni a Parma. Altri disastri, tanto che il sindaco del Movimento 5 Stelle Federico Pizzarotti ha chiesto lo stato di calamità naturale. Così, sindaco Pizzarotti, buonasera. Sì, buonasera. Sì, tramite la regione per il nostro territorio, perché l'impatto dell'alluvione, di quello che è successo, dello straripamento del torrente è stato molto impegnativo. Noi siamo ancora sul campo tutti i giorni per cercare di risolvere nel più breve tempo possibile la situazione. Io penso necessiti assolutamente della calamità naturale, anche perché non è stata una cosa che era ripetitiva, ma una cosa veramente eccezionale per la nostra città. I danni maggiori dove sono stati? Quali sono stati, Pizzarotti? I danni maggiori sono nella zona subito limitrofa, proprio a uno degli snodi del torrente. Sono una casa di cura per anziani che è andata sott'acqua sotto il primo piano, un ospedale che è anche lui pure la stessa cosa, ma soprattutto anche la centrale Telecom, che ha lasciato in blackout tutti i telefoni mobili di tutte e quattro le province fino a Modena, fino a stamattina, causando anche poi problemi di coordinamento con tutti gli altri enti che forze dell'ordine che hanno Telecom. A quanti milioni potrebbero ammontare i danni? È difficile fare una stima, perché cominceremo nei prossimi giorni, risolta la parte più importante dell'emergenza, cioè quella legata alle persone, legata alla riattivare l'energia elettrica, ma quello che mi sento sempre di dire è che sarà sicuramente più il costo della gestione dei danni rispetto a quello che sarebbe stato prevenire con una cassa, costruendo la cassa di espansione anche sull'altro torrente, sul torrente Baganza. Noi ne abbiamo una sul torrente Parma, sono due corsi d'acqua che si uniscono poi in prossimità della città, e se l'avessimo avuta io dico che questo non sarebbe successo e avremmo risparmiato disagi, soldi per i disagi delle persone, i danni che hanno avuto, e mentre avremmo avuto una sicurezza in più, perché adesso ovviamente anche psicologicamente pensiamo che possa ricapitare finché questo non verrà ricostruito, quindi è importante provvedere subito quando avremo finito questa emergenza. È un leitmotiv un po' di tutta Italia, ci sono questi disastri, no? Della prevenzione mancata. Pizzarotti, per chiudere, sa che Beppe Grillo è andato a Genova, nella sua città, dopo l'alluvione è stato contestato, però sono ancora presenti vari parlamentari del Movimento 5 Stelle, volontari, che lì a Parma si è fatto sentire da lei? Questa è la domanda tipica di questi giorni, che penso che porti veramente poca utilità. Quello che mi sento di dire è che ovviamente quando ci sono danni di questo tipo, io ci sono persone a Parma che hanno perso tutto, quindi chi la casa, chi ha la macchina, chi ha avuto allagamenti, 100 persone che adesso hanno un'azienda in difficoltà, che andranno in cassa integrazione, quindi è evidente che i toni e le modalità sono accese. Quel clima è molto buono, dovuto al fatto che i volontari, tantissimi volontari di studenti delle scuole che abbiamo chiuso, degli studi superiori, quindi il clima direi che è molto buono. Però i toni accesi sono anche qua, ma non è questo il punto, perché in un momento di grande stress, la risposta anche stizzita delle persone ci può sempre dice stare. Che è inevitabile. Allora, buon lavoro Federico Pizzarotti, buona fortuna anche. Grazie mille. Soprattutto alla mia città, e colgo l'occasione per ringraziare i tanti volontari che veramente stanno dando il massimo, che anche adesso che siamo ancora qua nelle zone colpite stanno aiutando per sgomberare dai rifiuti le strade. Sono davvero preziosi, meno male che ci sono queste persone. Grazie Pizzarotti. Esatto. Grazie. Grazie. Salve. E ora parliamo di questo caso abbastanza imbarazzante, oltre che sicuramente un fatto che fa indignare, di un maestro piuttosto manesco, diciamo così, per usare un eufemismo, che è stato segnalato più volte per i suoi metodi, però veniva spostato semplicemente da una scuola all'altra. È successo a Treviso. La squadra mobile di Treviso ha notificato un provvedimento di sospensione a questo maestro di scuola elementare per le continue violenze cui sottoponeva i suoi scolari di età tra i 6 e i 7 anni. Ci sono i filmati realizzati dalla Polizia di Stato con microtelecamere nascoste in aula, che mostrano in modo evidente l'insegnante prendere a calci, tirare le orecchie, dare ceffoni ai ragazzini, creando una situazione di paura, di terrorismo, come potete immaginare, nella classe. L'insegnante si chiama Ferdinando Cadicamo, 55 anni, ed era già stato denunciato in passato da un genitore per lesioni colpose e danni del figlio. Però cosa è successo? Che l'indagine è iniziata nell'aprile 2013, dopo la segnalazione di un dirigente di una scuola di Treviso. Già In questo primo episodio gli agenti avevano documentato anche lì con le telecamere nascoste questi metodi barbari di questo maestro: schiaffi, botte, torsioni addirittura del braccio, tirate d'orecchio. Alla fine dell'anno scolastico l'autorità giudiziaria chiude questa indagine, l'uomo viene assegnato a una seconda scuola dove da settembre a febbraio non viene segnalato alcun episodio. Poi tra febbraio e marzo del 2014, quindi all'inizio di quest'anno, arriva una nuova segnalazione, gli viene comminata una sanzione disciplinare, la procura fa richiesta di una misura cautelare, quindi la sospensione dell'insegnamento, però il GIP boccia questa richiesta. C'è poi il ricorso al tribunale del riesame, nel frattempo il maestro violento viene assegnato a una terza scuola dove finalmente a fine settembre lo raggiunge questo provvedimento di sospensione. Allora io voglio coinvolgere il sottosegretario all'istruzione Gabriele Toccafondi, grazie di essere in collegamento sottosegretario, buonasera. Buonasera a voi. Ha sentito quindi questa vicenda, allora ci si chiede come sia possibile che una volta che è conclamato che un insegnante maltratta in questo modo dei bambini poi così piccoli tra i 6 e i 7 anni, invece di sospenderlo e di aprire un'indagine, di vedere insomma quale provvedimento prendere, si passa da una scuola all'altra. Eh sì, questo è il tema principale di tutto il, diciamo, l'episodio, sì, che è emerso oggi in tutta la sua violenza, perché insomma, per le immagini non fanno bene. Non fanno bene per niente, lo dico da sottosegretario, lo dico soprattutto da padre di bambini piccoli di quell'età, certo. Cioè, quindi diciamo subito ognuno di noi fa giustamente anche una protezione rispetto ai suoi figli o bambini che conosce direttamente e non concepisce giustamente come sia possibile una violenza in genere, ma una violenza soprattutto alle persone più indifese, bambini di 6-7 anni, quindi è l'aspetto più raccapricciante dell'episodio, però desta preoccupazione anche quello che lei ha brevemente raccontato rispetto a tutta la vicenda, cioè una lungaggine che non è possibile, non ci possiamo permettere. Io voglio sottolineare che il tutto è partito, ricordato lei, da segnalazione di genitori e da una segnalazione di un dirigente scolastico. Segno che diciamo la rete interna alla scuola funziona. Genitori, insegnanti, dirigenti scolastici sono all'interno della scuola, vedono, osservano e fanno segnalazioni. Io però la preoccupazione è quella a cui faceva riferimento lei. Più di un anno per accorgersi e poi arrivare anche a quello che è stato il fermo odierno. Tutti noi siamo garantisti, quindi ci sarà un percorso giudiziario, però le immagini, a quanto si apprende anche dalle agenzie di stampa, sembrano essere molto chiare. Parlano da sé, insomma, queste immagini. Ecco, noi dobbiamo sicuramente rivedere qualcosa, ma non solo e soltanto, mi permetto di dirlo, come MIUR, ma come sistema italiano, come giustizia, come provvedimenti. Perché mi risulta anche dalle agenzie di stampa che stiamo leggendo che il provvedimento non è stato inviato anche per problemi burocratici interni alla magistratura. Questo non è possibile. Da parte nostra noi valuteremo tutto quanto è accaduto in questi mesi per comprendere come possiamo migliorare il sistema di allerta e anche il sistema di tutela dei ragazzi, dei bambini, degli adolescenti. Ma dall'altra parte mi lasci dire che forse è da ripensare un sistema, anche perché tenere in classe una persona che aveva a più riprese avuto delle segnalazioni non penso faccia bene soprattutto ai ragazzi, ai bambini, ai genitori e complessivamente al sistema scolastico italiano. Perché qualche insegnante a volte, no, come tra le persone di qualsiasi categoria, un po' squilibrato può capitare, l'importante è che nel momento che agisce lo si fermi immediatamente dopo, no? Ecco, questo. Guardi, qui c'è da fare una precisazione perché è sottile all'inizio anche la distinzione tra un'accusa e una cosa vera, quindi noi dobbiamo stare attenti. Però dobbiamo anche soppesare le varie denunce che arrivano e anche, e questo era il caso, denunce che provenivano sia da genitori sia una segnalazione dal dirigente scolastico. Quindi io faccio un appello a far attenzione su questo tema, a non far di tutta l'erba un fascio, a non fare anche di tutte le segnalazioni singole casi che possano portare automaticamente, immediatamente a una sospensione, per esempio. Quindi è sottile, Questo certamente no, sottosegretario. Ma dobbiamo alzare assolutamente l'attenzione e non lasciar cadere le segnalazioni nel vuoto, e questo lo dobbiamo fare, ribadisco, come sistema, non solo come E non pensare che la soluzione sia spostarlo da una scuola all'altra. Io la ringrazio intanto, allora, sperando che non ci siano più questi casi. Grazie, sottosegretario Toccafondo. Grazie, anche mia. Grazie, buonasera. Grazie mille, buon lavoro. Europa 24 notte. Parliamo con Silvia Bernardi, che saluto da Bruxelles. Ciao Silvia. Ciao Roberta. Del cinema europeo, perché è seguito oggi una tavola rotonda, si parla anche di questo in Europa, qualcuno può pensare che sia una cosa solo burocratica, economia, finanza, anche di cinema, che è cultura e economia nello stesso tempo, e mi pare che ci siano delle notizie buone e alcune meno buone, no Silvia? Esattamente, esattamente. C'è una notizia buona per il cinema europeo ed è quella che gli europei amano il cinema, e c'è una notizia cattiva per il cinema europeo ed è che gli europei non vanno al cinema perché guardano i film invece in formato PC, tablet e smartphone. Proprio oggi è stata presentata una ricerca della Commissione europea che dice che il rapporto dei cittadini, che i cittadini dell'Unione hanno con il cinema, è ottimo, nel senso che il 97% dichiara di andare al cinema, addirittura il 50% di vedere almeno un film al giorno, e questa è una vera e propria dichiarazione d'amore, che però si incrina sul modo in cui gli spettatori consumano i film, e cioè il 70% del campione ha ammesso di guardare i film via internet, e bene il 68% ahimè di scaricarlo gratis dalla rete. Questo è un numero che non sorprende Bruxelles, ma che sicuramente preoccupa, e che dice che mentre il pubblico ha un grande interesse per i film, le sale stanno iniziando a diventare lontane e l'offerta dei film stranieri è piuttosto limitata. Quindi questa è la cattiva notizia per il cinema europeo. Senti, ci sono per il futuro prospettive, in sintesi, per il cinema europeo buone? Ci sono decisamente delle prospettive buone. C'è una cosa che l'Europa deve fare per il cinema europeo ed è quello di investire di più sulle piattaforme digitali, perché come insegnano i consumatori di cinema, soprattutto giovani, il web è un grande mezzo di promozione che abbatte i costi, abbatte anche i guadagni, è innegabile, ma è altrettanto innegabile che in questo momento l'industria cinematografica europea non sta sfruttando a pieno le potenzialità per raggiungere un nuovo pubblico oppure per valorizzare quei partenariati transfrontalieri di cui parla molto spesso. Per cui per l'industria cinematografica europea possiamo dire, così per chiudere, che è arrivato il momento di iniziare a considerare altri canali distributivi oltre a quello delle sale, che fino ad ora invece l'hanno fatto da padrone. Grazie Silvia Bernardi da Bruxelles, ciao. Grazie a te, ciao Roberta, buon lavoro. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Il tempo corre, ma bisogna assolutamente parlare dell'emergenza Ebola, perché il presidente Obama ha rinunciato a vari viaggi, impegni che aveva per convocare d'urgenza un summit proprio alla Casa Bianca su Ebola, dicendo che è una cosa molto molto seria, ha chiesto ai paesi europei di fare di più, e oggi c'è stato anche un vertice a Palazzo Chigi in Italia per capire quali misure cominciare a prendere. Saluto il dottor Antonino Di Caro, buonasera professore. Buonasera. Direttore del laboratorio di microbiologia dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, che insieme al Sacco di Milano sono i due riferimenti in Italia per l'emergenza Ebola. Lei sa di questo vertice che c'è stato, dottor Di Caro, no? Oggi a Palazzo Chigi. Veramente no, perché ho lavorato fino a tardi, alle 9 di sera, e solo alle 9 sono rientrato. Lei è uno stacanovista, però leggevo che tra le varie misure, solo un'indiscrezione uscita in realtà, due aerei militari C-130 sono pronti per eventuali operazioni di evacuazione di cittadini italiani che dovessero risultare infetti da virus Ebola in Africa. In Italia siamo attrezzati per domare questa malattia, Di Caro? Siamo attrezzati per ricevere eventualmente pazienti e per trattare quelli che dovessero inavvertitamente arrivarci senza, in maniera non deliberata, cioè coloro che magari tramite un viaggio aereo potessero arrivare qui da noi, esattamente come è successo negli Stati Uniti. Senta, senza creare allarmismi, ma quali precauzioni, quali cose bisogna sapere assolutamente per, da cittadini normali, insomma? Allora, prima di tutto che la malattia può essere trasmessa solo dalle persone sintomatiche, quindi non si devono preoccupare se qualcuno ritorna da quei paesi ed è completamente sintomatico. Non è una persona pericolosa, noi mandiamo giù delle persone per aiutare, per sconfiggere questa malattia e le teniamo in sorveglianza quando ritornano e non c'è da questo punto di vista nessun pericolo. L'altra cosa importante da sapere è che specialmente qui in Occidente, con la collaborazione delle persone e con un isolamento dei contatti e un isolamento, diciamo, delle persone che sviluppano sintomi e con un trattamento precoce, noi siamo convinti che riusciamo a ridurre il tasso di mortalità che invece è stato riscontrato in Africa. Poi cercheremo di capire quali misure verranno prese, ci sarà un vertice, anche se non sbaglio, domani proprio, sì, questo è stato un anticipo probabilmente questo di Palazzo Chigi, un vertice europeo su quali misure adottare per una maggiore sicurezza in Europa, visto che anche Obama ha chiesto all'Europa di fare di più. Professor Di Caro, intanto la ringrazio e la saluto, buona continuazione. Grazie. Bene, vedo un sacco di messaggi sulla questione, sulla vicenda del maestro, molti messaggi indignati, avrebbero dovuto licenziarlo da tempo, la dimostrazione, dice Max da Como, che in Italia non c'è cultura, e molti altri messaggi, giustamente, insomma, di persone arrabbiate e scandalizzate per questo fatto di cui abbiamo parlato col sottosegretario Toccafondi. Adesso ci dobbiamo lasciare e poi ritorno giusto un attimo.